Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci ascoltate di prima mattina e come sempre mi piace dire, buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, ieri abbiamo cominciato ad affrontare il tema della dislessia. Lo abbiamo fatto grazie ad una bellissima mail di un genitore di un bambino dislessico, di una bambina dislessica anzi, che frequenta le scuole in provincia di Varese, che come ogni fine anno si trovava di fronte alla difficile valutazione da parte dei propri insegnanti. La sua testimonianza ci ha permesso di aprire una finestra sul mondo della dislessia che continueremo oggi e che continueremo anche domani. Ieri abbiamo lasciato voi tutti con il messaggio, diciamo, di speranza di un disegno di legge che è stato presentato dal senatore Franco Asciutti, che è stato anche nostro ospite. Ebbene, quel disegno di legge, presentato da ben 8 anni, alcuni giorni fa è stato approvato all'unanimità dal Senato ed è passato dunque alla Camera. Speriamo che questo disegno di legge abbia un iter molto veloce, perché punta soprattutto alla formazione dei docenti, perché ricordiamo la dislessia che colpisce un numero imprecisato di italiani, sono comunque milioni gli italiani che sono interessati da questo fenomeno, che come abbiamo sentito ieri è un disturbo specifico dell'apprendimento. Ebbene, dicevo, speriamo che questo disegno di legge abbia un iter rapido. Oggi, per continuare a parlare di questo tema, abbiamo chiamato due mamme, due genitori di ragazzi, è il caso di dire, perché sono in età già adulta, dislessici. Una è la dottoressa Claudia Cappa, che è ricercatrice di disturbi specifici dell'apprendimento presso il CNR di Torino. Buongiorno. Buongiorno. E l'altra è Antonietta Giao, è la mamma di un ragazzo dislessico, ma è anche un punto di riferimento importantissimo in Sardegna per tutti i genitori che sono alle prese con questo problema. Buongiorno signora Giao. Buongiorno. Allora, direi di partire subito dalla dottoressa Cappa. Ma perché? Perché mi sfizia molto, mi interessa molto capire che cosa vuol dire ricercare tecnologie dell'apprendimento che facilitino l'inserimento dei ragazzi dislessici. Mi interessa e mi sfizia, ma non per una morbosità, ma proprio perché è bene che i nostri radioascoltatori capiscano che un dislessico non è un malato e che quindi è importante che i professori sappiano integrarli nel loro percorso scolastico. Prego, dottoressa Cappa. Buongiorno. Allora, io inizierei dal fatto che sì, è importante usare le tecnologie, però non tutti i ragazzini che hanno un disturbo specifico hanno bisogno delle stesse tecnologie. Ogni ragazzino è diverso, come è diverso anche nella realtà, cioè nel senso ogni bambino, anche non dislessico, è diverso dall'altro. Però la cosa importante più che altro è capire quali sono i deficit sottostanti, perché dire dislessico vuol dire un pochino tante cose. Certo. Quindi ogni ragazzino avrà bisogno del suo strumento compensativo e essere dispensato da alcune cose. Per cui il nostro gruppo, che è un gruppo che è nato un pochino così tramite internet, in qualche modo coordinato da me e da un'altra mamma e dallo stesso Roberto Di Gian Domenico, in qualche modo abbiamo cercato di dare importanza alle tecnologie didattiche, ma più che altro iniziare a far sì che gli insegnanti sappiano individuare quali sono i bambini che hanno un disturbo specifico. Certo. E poi dal disturbo specifico capire qual è il deficit sottostante, e soltanto sapendo qual è il deficit sottostante l'insegnante potrà capire qual è lo strumento che potrà suggerire al ragazzino. Ecco, dottoressa Cappa, mi tolga una curiosità. Ieri abbiamo capito nel colloquio con i nostri due ospiti che purtroppo l'Italia è l'ultimo paese in cui si ricorre al fai da te, no? Cioè si mettono in rete i genitori di dislessici, poi magari si cercano alcune punte di diamante dei testimonial che possano sensibilizzare sul tema, perché manca una cultura. Purtroppo in Italia la cultura sulle veline l'abbiamo ed è elevatissima, meno invece sui temi vivi e reali come questo. Ecco, ma è vero che lei faceva un altro mestiere e ha cambiato professione proprio per andare incontro alle esigenze di suo figlio e chi come suo figlio aveva questo tipo di problema? Sì, nel senso che io, vabbè, continuo a essere ricercatrice, facevo già la ricercatrice al CNR. Poi, quando abbiamo scoperto che mio figlio era dislessica in seconda media, in qualche modo ho iniziato a studiare quali erano le problematiche dei ragazzini DSA, poi mi sono specializzata sulla discalculia perché sono laureata in fisica, ho fatto dottorato di ricerca in geofisica, per cui in realtà mi occupavo di interazione aria-mare, quindi lo scambio di calo energetico tra la superficie marina e l'atmosfera. Poi probabilmente nello spirito da ricercatrice ho iniziato a studiare così tanto e alla fine sono riuscita a convincere le persone che... E questo, le fa solo che onore, oserei dire. Ricordiamo che la discalculia è catalogata all'interno del più ampio calderone, diciamo così, della dislessia e della deficit del sistema di elaborazione dei numeri o del calcolo. Esatto. Quindi è una difficoltà nel associare il numero alla quantità e via dicendo, insomma, è una difficoltà nell'apprendere, nel capire il valore dei numeri. Direi di passare a questo punto dal Piemonte alla Sardegna e quindi andiamo dalla signora Antonietta Giau. Prima, quando parlavamo tra di noi, prima di cominciare la registrazione, diceva che lei è un punto d'ascolto importante nella sua area e che le arrivano delle storie incredibili. Ecco, può raccontarci qual è la storia di una mamma che ha un figlio dislessico ma che si trova lì ad ascoltare storie più inverosimili della propria? Partendo dalla mia esperienza, che parte da quando mio figlio è entrato in prima elementare, vedere un figlio che nel giro di entusiasta chiaramente di andare alla scuola, eccetera, e nel giro di 3-4 mesi vedere il proprio figlio distrutto. Le faccio solo due esempi. Prego. Per capire veramente quanto sia devastante l'approccio con la scuola in un bambino che non è capito. Già dopo qualche mese mio figlio la mattina aveva tutti i problemi di questo mondo e lui, mi ricordo benissimo come un flash, il bambino che si accuccia nel mio letto e dice: mamma, voglio tornare dentro la tua pancia pur di non andare a scuola, siete genitori crudeli perché mi mandate a scuola. E questo ti fa capire la disperazione di questo bambino. E un altro, dopo circa due mesi di scuola, che io chiedevo, avevo la brutta abitudine di chiedere sempre come è andata oggi, e dico: ma come è andata oggi a scuola? E ha detto: mamma, oggi non ho lavorato, però stai tranquilla, non ho fatto merenda. Cioè lui a 6 anni si autopuniva. Ho detto: ma come mai non hai lavorato? Per forza, entra e ti guarda con quello sguardo. Fino ad arrivare, perché a questo punto mi sono preoccupata perché vedevo proprio che gli insegnanti non capivano. Prima io sono stata un po' complice degli insegnanti, per cui anch'io pensavo fosse una sfida sua nei miei confronti, io non sapevo assolutamente niente di dislessia, per cui sono rivolta, ho cercato su internet, ho guardato e ho visto che c'era l'Associazione Italiana di Dislessia, che tanto ha fatto in questi anni. Certo. Per sensibilizzare sulla formazione anche, per sensibilizzare sul problema e sulla formazione degli insegnanti. Ecco, può dire un sito internet magari? Sì, www.dislessia.it oppure aiditalia.org. Aiditalia.org, bene, perché ieri abbiamo dato anche altri siti, sì. Quindi questo è importante. Questo è proprio il sito ufficiale dell'associazione. Certo. Che è molto francamente sentire la sua testimonianza è abbastanza toccante, ma non perché si è colti da pietà, ma perché mi viene in testa quanto veramente il corpo docente, ma direi proprio l'Italia tutta, è lontanissima dai problemi reali della nostra società, e quindi mi vergogno a nome degli italiani che non capiscono che Silvio e Noemi passano mentre invece questi problemi colpiscono. Ecco, le chiedo un'ultima cosa. Prego. L'unica cosa che le voglio dire, sì, è che prego, sono prego. A dover trasferire mio figlio in un'altra scuola a distanza, in un altro paese addirittura. Lui veniva da una classe di 13 bambini, è andato in una classe di 25 bambini a marzo del primo anno ed è stata la sua salvezza. Questo per dire che pur non conoscendo ancora che si trattava di dislessia, è bastato il cambio dell'insegnante, perché io lo ritengo fondamentale per assolutamente il presente e il futuro dei nostri figli. Assolutamente, le cose da chiedere sarebbero tantissime, ma i nostri radioascoltatori sanno che domani proseguirò con altre storie, altre testimonianze. Ma per chi volesse dare un sostegno, indipendentemente dal partito che rappresenta, perché chi mi conosce sa che a me non frega assolutamente nulla dell'appartenenza politica, ma per chi volesse sostenere nella battaglia a sostegno dell'insegnamento nei confronti dei bambini dislessici il senatore Franco Asciutti, bene, mandategli una mail, servirà anche questo per sensibilizzare i politici italiani. Come vedete, non dico nemmeno il partito d'appartenenza proprio perché non mi interessa assolutamente nulla. Dico grazie alla dottoressa Cappa per il suo intervento, alla dottoressa Giao per la sua testimonianza. Dico grazie a regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagini e Roberto Galullo. Vi dà appuntamento a domani. Torneremo ancora sul tema della dislessia. Buona giornata a tutti.